a tutti, cari amici, e benvenuti alla settima puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre, al microfono per voi il vostro speaker Vagabondo Fumino, e oggi chiaramente a pochissimi giorni di distanza da uno degli eventi più importanti del nostro paese, anche io sono qua a chiedervi una cosa molto semplice, che in realtà non è così semplice come sembra, perché è molto complessa. Però la domanda appare semplice, e la domanda è sì o no. Chiaramente non stiamo parlando della canzone di Ferrello di un qualche decennio fa che si faceva lo stesso interrogativo, ma stiamo parlando dell'ormai imminente referendum costituzionale. Dopo ormai svariati giorni, mesi addirittura di campagna elettorale per il referendum, ne abbiamo sentite veramente di cotte e di crude, sia per il fronte del sì che per il fronte del no. E l'augurio che io mi faccio è che le cose siano abbastanza chiare nella vostra testa. Quello che chiaramente io ho notato e che non condivido, diciamo, è che questo referendum è stato preso sia da una parte che dall'altra come un fatto politico. In realtà non è un referendum politico. Con questo referendum si va a decidere, si va a dire la nostra opinione di cittadini su una cosa molto importante, che è appunto la Costituzione della Repubblica. E purtroppo, fra le tante cose che sentiamo dire e anche molto frequentemente sia da una parte che dall'altra, ci sono tante inesattezze, tante imprecisioni, tante cose dette un po' per confondere le acque, un po' per far scattare l'ego, per colpire alla pancia di noi italiani. E chiaramente questa cosa a me mi è successa in casa l'altra sera con mia madre. Ero da lei per una cena, e nel parlare ovviamente del momento topico della nazione, lei era orientata a votare, non sto a dire se sì o no, ma per un motivo politico, vale a dire, ad esempio, voterò no perché non mi piace Renzi, voterò sì perché mi piace Renzi. In realtà non è questo la questione, non è questo il problema, perché indipendentemente da Renzi o da un'altra persona, che è solamente in questo momento il Presidente del Consiglio, questo passerà. Quello che voteremo nel referendum costituzionale in realtà poi invece resterà, perché andrà a modificare oppure non andrà a modificare la Costituzione, e questo ci sarà in futuro indipendentemente da chi sarà il Presidente del Consiglio. Detto questo, c'è subito una grossa imprecisione per quanto riguarda quello che generalmente è sostenuto dal fronte del no. Chiaramente io sto facendo delle considerazioni su quello che vedo, su quello che succede, tutto è confutabilissimo, potete tranquillamente controllare se sono fazioso oppure no. Io cerco di non esserlo, cerco di non indirizzare né da una parte né dall'altra, non è assolutamente la mia intenzione questa. Però una cosa imprecisa che dicono ad esempio quelli del no è come questo presidente non è stato eletto da nessuno, non è stato eletto dal popolo, e allora bisogna votare no. Ma questa è, pensandoci bene, una solenne bischerata, perché la nostra Repubblica è una Repubblica parlamentare, e di conseguenza alle elezioni, quando andiamo a votare le elezioni politiche, noi non eleggiamo il governo o il Presidente del Consiglio, noi eleggiamo il Parlamento, eleggiamo i membri della Camera dei Deputati e i membri del Senato. Poi sarà il Presidente della Repubblica, in base a le proporzioni che sono all'interno del Parlamento, a individuare un Presidente del Consiglio. Ecco, dunque questa cosa non succede, ma perché è questa Costituzione che prevede che sia così, che prevede che non succeda questo. Quindi chi sostiene il no, ad esempio in questo caso, con questa motivazione, e dice chiaramente una solenne bischerata. E chiaramente delle inesattezze, delle cose che non sono proprio precise, le dicono anche i sostenitori del sì, che ad esempio i sostenitori del sì dicono se chi vince le elezioni poi dopo questa riforma governa per 5 anni e se non va bene si manda a casa. E però questo in realtà non è un miglioramento della politica, perché alla fine sono, io a mia memoria, circa 20 anni perlomeno che ad ogni tornata elettorale politica puntualmente l'area parlamentare che aveva governato viene mandata a casa, e quindi c'è stata per almeno 20 anni, circa 25 forse, un'alternanza comunque, quindi questo già è fattibile anche con questa Costituzione. Quindi dire votiamo sì perché almeno poi succede questo è inesatto, perché questo è successo ugualmente, è successo lo stesso, e questo ad onor del vero è successo sia in caso che Parlamento di maggioranza fosse appunto con una maggioranza risicata, sia che fosse invece con una maggioranza un po' più ampia, perché se vi ricordate ad esempio i vari governi di centro-sinistra che si sono avvicendati negli ultimi 20 anni avevano delle maggioranze molto ristrette, mentre invece i governi di centrodestra che si sono avvicendati negli ultimi 20 anni avevano delle maggioranze molto ampie, quindi dei governi molto solidi e molto stabili. Ma nonostante questo, puntualmente alla fine della legislatura sono stati rimandati a casa per quella che viene chiaramente chiamata l'alternanza. E di fatto la stabilità è più un fatto di cultura politica che di tecnica elettorale o addirittura costituzionale. Quindi dire cose inesatte praticamente porta chiaramente fuori strada un po' tutti. Chiaramente il primo, secondo me, responsabile di questa impronta politica che ha preso il referendum è per l'appunto il Presidente del Consiglio, che ha fatto di questo referendum appunto un appuntamento politico, e chiaramente di questo c'è chi subito ha preso la palla al balzo. Quello che mi viene di dire è che purtroppo proprio per effetto di questa connotazione politica che sta prendendo il referendum, che ormai ha preso perché ormai siamo agli ultimissimi giorni e poi questo referendum finalmente ci sarà e scopriremo se gli italiani avranno detto sì o avranno detto no, però dicevamo con il risultato di allontanare anche una grande parte di elettori, perché come succede ormai da un po' il partito degli astensionisti è il partito alla fine più numeroso, e avendo preso il referendum costituzionale questa deriva politica sta chiaramente allontanando e disinteressando un sacco di cittadini, perché chiaramente il leitmotiv di tante persone è sempre lo stesso: i politici qui, i politici là, e rubano e tutto quanto, e quindi per questo motivo io non vado a votare, non vado a votare nemmeno il referendum costituzionale. Alla fine in realtà il referendum costituzionale, andando appunto a modificare la Costituzione, interessa proprio tutti, anche chi ha dei pensieri di questo tipo. E non solo, questo referendum, essendo appunto un referendum costituzionale, non un referendum abrogativo come generalmente sono i referendum, non prevede quorum, quindi che vadano 100 persone o che ce ne vadano 50 milioni è assolutamente la stessa cosa, e quindi perché delegare ad altri magari una decisione che poi è importante anche per tutti. Chiaramente per molte persone qual è lo scoglio più grosso? Lo scoglio più grosso, io penso, suppongo, che sia il non aver ben compreso assolutamente niente, pure molto poco, di questa riforma. Questo è abbastanza scontato che sia così. Perché? Perché l'informazione alla fine non fa proprio il suo dovere, e quindi non è che ci vengono dette per bene quali sono le modifiche, quali articoli della Costituzione vengono modificati e cosa cambia, cosa non cambia, insomma, e quindi ci si rifà anche nelle tribune politiche, diciamo, nei talk show televisivi oppure sulle pagine dei giornali, ci si rifà allo scontro politico, e questo dal mio punto di vista è un grave danno proprio al referendum, all'intento del referendum, alla sacralità che ha un referendum di questo tipo. Quindi, come sempre, da parte mia per voi il suggerimento è di cercare di informarvi. Se cercherete su internet delle informazioni su, per quanto riguarda il referendum, le troverete. Troverete le ragioni del sì, troverete le ragioni del no, e quindi riuscirete a farvi un'idea in qualche modo un po' più chiara di quello che sta succedendo, di quello che andrà modificandosi in caso che vinca il sì. E chiaramente, se vincerà il no, è inutile dirlo, resterà tutto com'è. Un'altra cosa che è secondo me necessario è che l'Italia alla fine ha da decenni, almeno da due decenni, un'urgenza di questa riforma costituzionale. Ad esempio, già la bicamerale di Massimo D'Alema nel 20 anni fa, alla fine nel 97, e poi anche il governo Berlusconi ci provò, non ci sono riusciti, non si erano mai trovati d'accordo, non erano mai arrivati fino a questo punto. E adesso, con questo governo, che era un governo tirato su apposta per le riforme, siamo arrivati a questo punto. Tanto avanti come adesso non ci eravamo mai arrivati. Chiaramente, all'inizio è necessario anche dire che all'inizio delle discussioni il consenso era anche in Senato era molto ampio riguardo questa riforma, il consenso che poi all'interno appunto delle Camere è andato via via scemando, e chiaramente chi ha fatto mancare il consenso, quindi chi sostiene oggi il no, dice che la riforma è scritta in maniera sbagliata, è una riforma un po' arrangiata, che ha dei punti oscuri e controversi, e quindi è per questo che ha cambiato idea, mentre invece i sostenitori del sì dicono che chi ha cambiato idea, chi prima inizialmente sosteneva la riforma e adesso non la sostiene più, lo fa esclusivamente per motivi politici. E sono due posizioni chiaramente che non coincidono, ma che sono entrambe verosimili. E ancora a sostegno del sì, chiaramente qui si dicono che con la fine del bicameralismo perfetto e l'accorciamento dei tempi per quanto riguarda i passaggi in Parlamento per l'approvazione delle leggi, praticamente si velocizzerà il Parlamento, che pare sia molto lento. Mentre chi sostiene il no sostiene che il Parlamento non è lento, in quanto in Italia in un anno sono state approvate mediamente oltre 100 leggi, che ci mettono in una posizione molto alta in tutta l'Europa. E c'è anche da dire, ad onor del vero, che in Europa l'Italia è l'unico paese che ha questa forma di bicameralismo, appunto il bicameralismo perfetto con la parità delle due Camere. E fin qui tantissime considerazioni e analisi, e cercare di capirci delle cose in maniera molto razionale. Sinceramente, a me mi viene anche in mente una soluzione, diciamo uno scenario che forse è molto poco razionale rispetto a questo, però secondo me è altrettanto verosimile. Io mi interrogo sempre su delle cose, ho sempre tanti dubbi, non ho mai certezze in un mondo fatto di persone che sembrano essere certe, sicure di tante cose, che hanno tutte le soluzioni in tasca per tutto, che hanno capito tutto, che sanno cosa fare. Generalmente questo è su internet, che poi dal vivo i dubbi vengono fuori anche a queste persone qua, però a parte questo, che è un altro discorso, il mio dubbio è: ma se sono 20 anni, come dicevamo prima, che i governi che si sono succeduti stanno cercando di cambiare la Costituzione, stanno cercando di modificarne degli articoli, e ancora non siamo arrivati a niente fino almeno a questo 4 dicembre. E se è vero che dietro a queste modifiche ci sono fior fiori di costituzionalisti che chiaramente il loro lavoro, sanno della materia che trattano e tutto quanto, se tutto questo è vero, mi chiedo come sia possibile, ad esempio, che proprio questa materia, su cui tanti studi, tante ricerche, tante modifiche, tanti cambiamenti, e questo non va bene, quello non va bene, e una virgola prima una parola o una virgola dopo una parola. Non dimentichiamoci, ad esempio, quanto è importante la punteggiatura nella lingua italiana. È importantissima. Una cosa che io ho in mente di uno spettacolo teatrale di Dario Fo che ho visto molti anni fa per la prima volta, e lo spettacolo in questione è Morte accidentale di un anarchico. Al di là del tema che tratta lo spettacolo, di cui non voglio parlare, su cui non mi voglio soffermare, quello che mi colpì molto anche già ai tempi in cui lo guardai per la prima volta è che il personaggio che Dario Fo interpreta ad un certo punto fa il matto. Non so se chi mi sta ascoltando ha visto lo spettacolo, in ogni caso fa il matto, e nel fare il matto si finge giudice, però dice le cose in una maniera tale, con una punteggiatura tale anche nel parlato, per cui quando il questore di turno cerca di incriminarlo per aver detto una bugia, lui si discolpa spiegando che siccome ha usato la punteggiatura in un certo modo non aveva detto nessuna bugia. Bene, allora chiuso questo preambolo. Se ci sono persone in questo modo che ci hanno studiato così tanti anni e ancora non siamo arrivati di fatto a niente, come è possibile, mi chiedo io, che mettendo una croce su una scheda facciano decidere a noi, alle persone comuni, una cosa così importante e così difficile? Pensate, secondo i dati pubblicati nel 2005, quindi ieri, non mille anni fa, ieri, dall'Unione Nazionale per la Lotta all'Analfabetismo, basati su un censimento del 2001, quindi ieri più un giorno, ieri l'altro, questo censimento fra i cittadini italiani sopra i 6 anni, quasi 6 milioni erano privi di un titolo di studio o analfabeti, cioè l'11% circa si registra, contro il 7% ad esempio dei laureati, che sono laureati ovviamente in ogni campo, non per forza in materia umanistica. Addirittura, secondo uno studio dell'OCSE, nel 2002 l'Italia figurava terzultima su un campione di 30 paesi, terzultima, solamente migliori di Portogallo e Messico. Cioè gli illetterati, gli analfabeti, o coloro comunque senza un titolo di studio o solo con la licenza elementare, costituivano il 36,5% della popolazione sopra i 6 anni. Così, più o meno, 20 milioni di persone. Ora nel 2002-2001, quindi molti saranno anche morti di questi, quindi saranno un po' cambiate le percentuali, ma ci pensate che, diciamo, che ne so, se dal 36 siamo scesi al 30 in 15 anni ci sta, al 25 ok, ci pensate bene, fanno decidere a persone di cui un quarto di queste sono addirittura analfabete sulla Costituzione della Repubblica. Io mi chiedo quanto sia verosimile questa cosa. Non so se voi ve lo chiedete o no, però questa è una domanda che io mi faccio. E beh, cari amici, diciamo, in parte ho cercato di razionalmente trovare cose, in parte ho cercato di dare sfogo a cose forse un po' più irrazionali, ma secondo me comunque anche verosimili. Forse mi sono fatto prendere dalla 1984ite, neologismo, vale a dire dall'aver letto 1984 di Orwell, però io ho seriamente un sacco di dubbi sul sì, sul no e sulla verità di questo referendum. Non ho chiaramente le soluzioni, mi terrò i miei dubbi e non lo so, mi auguro che qualcuno di voi magari abbia un po' riscoperto dei dubbi anche lui, e che gli sia presa la voglia di informarsi ancora di più. Detto questo, cari amici, Io vi saluto, il vagabondo per oggi termina qua, puntata lunghissima oggi, e grazie di avermi ascoltato fino a qua. A presto con l'ottava puntata di Vagabondo in giro per il mondo sulle frequenze di Radio Big World. E come sempre, siate saggi!